Immaginal per sempre, immaginalo qui, col bello e col tormento, immagina com'è, poi una nuova avventura che bussa, è chiaro che aprirò. L'evento è se adesso io sapessi dire no. Io non ho mai detto no a niente e adesso lo farei per te. Tanto se la vivi finisce, non lascia. L'evento è stare solo con te. Io non ho mai fatto male a niente, o almeno è quanto dico di me. Ma se il male tuo comincia a cantare, qualcuno poi lo guarirà. Qualcuno poi lo guarirà. Immagina la notte con stelle solo due, contate ad una, immagina com'è, e poi l'alba di un timido sole che ti somiglia un po'. L'evento è se adesso io sapessi dire no. Io non ho mai detto no e adesso so che lo farò in silenzio e non per esempio, sarà un regalo anche per me. Faccio in me tacere l'istinto che ho dentro, senza rinnegarlo mai. Dico, anzi canto, l'amore è la cosa più forte dopo la verità. L'evento è stare solo con te. L'evento è stare solo con te. Se io sapessi dire no.